tendenza dal mio ego come una sostanza. ROCKP prende piede avanza. DP, riot rap, rivoluziona le mode. Lancia molotov rime con rabbia e spessore. Città del rumore, dello spirito dei falliti. Ucciderei tutti diversi da me come parassiti. Ti credi bello? Sì. Tutto in tiro? Sì. Parli di strada ma vatti a fare un giro? Sì. Io lotto da solo e tu che cosa fai? Hai bisogno di qualcuno se no qui non ci stai. Chiudi la bocca come quando canti l'inno. Sì. Perché sono esaltato come quando righi dritto. Bastard inside ma so quello che faccio. Yeah. Perché per certe balle fra io non taccio. Mi trovi alle 4 a bossare occhi spenti. Che mangi una piada da 22 ingredienti. È strano Rock P, è passo passo. È strano Rock P, è passo passo. È strano Rock P, è passo passo. È strano Rock P, è passo passo. È strano Rock P, è passo passo. È strano Rock P, è passo passo. Strano ma incosciente, meglio che stronzo ignorante. Mi esprimo come voglio, posso farlo anche galante. Se mi trovo una figa di legno che fa l'intellettuale, le dico mi consenta, vada pure a cagare. Sono grezzo ma con stile, lo riconosci soltanto dall'ascolto delle mie rime. Questa linea sottile che ci divide è grande più o meno come da qua fino in Brasile. Sta qua la differenza, porta pazienza. Vuoi essere come me, ci vuole coscienza. Attitudine, realtà, verità, lealtà. E chi ne sa come me, la metà. Devi consumarne di foglie di inchiostro. Devi pensare le parole per essere sempre arrosto. Il fumo lascia l'occhio e si pippa le cazzate. Fidati dell'uomo tondo con le palle quadrate. È strano Rock P, è passo passo. È strano Rock P, è passo passo. È strano Rock P, è passo passo. Passo. È strano Rock P, è passo passo. È strano Rock P, è passo passo. È strano Rock P, è passo passo. Passo. È strano Rock P, è passo passo. È strano Rock P, è passo passo. È strano Rock P, è passo passo. Passo. È strano Rock P, è passo passo. È strano Rock P, è passo passo. È strano Rock P, è passo passo. Passo.